Non ti permettere di avvertire mia madre e neanche gli sbirri! Pepepe, perché? Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte! Pensate che lui che minaccia è un ragazzino di 12 anni e lei che balbetta e risponde è una insegnante! Sembra una storiella, fantasia, leggenda, cinema, film e invece è vero! Teatro di quanto accaduto è una scuola media di Palermo! Lo studente modello al mattino, dopo la colazione, afferra lo zaino e infila le sigarette! In tasca nasconde la shish! Suona la campanella ed entra in classe! I compagni lo sanno, lui è uno che fuma tabacco, erba e cioccolato! Prima e dopo i pasti, senza ricetta medica! Poi l'alunno ha una bella idea! Tira fuori le sigarette sul banco! La maestra interviene, domanda! Lui risponde! Boh, non lo so, le ho trovate dentro il mio zaino! Poi ancora lo studente terribile lancia fuori dalla borsa 4 involucri di carta stagnola e li avvicina al naso della malcapitata. Annusali, odora e ascisce. L'insegnante è letteralmente stupefatta, come se avesse fumato lei lo stupefacente. Lui la minaccia. Non dire niente, perché altrimenti ti becchi una scarica di legnate. Poi la conclusione. Ecco la polizia. Cercano la droga, ma non la trovano! Dove è stata nascosta? Boh, risponde lo studente, io non ne so niente! L'insegnante mente, racconta menzogne, fandonie, bugie! Poi ecco la madre della piccola peste! La donna allarga le braccia, si giustifica! Non ho mai sospettato che mio figlio fumasse spinelli!